la scelta sul picco della montagna. Non c'è meta sul ricco paesaggio che vi regna. Percepisco un assaggio, percepisco l'atterraggio al saggio che insegna. Per il mio stampo da convinto classicista non salgo sul convento, ma sul convinto nella mischia della naturalezza in armonia, concretezza della sintonia di ogni linea. Sento in linea varie anime intrecciarsi, rasento il responso concorso nel corso dei tempi avvicinarsi. E non sento spavento, momento che mi avvolge un turbine di scomparsi, culmine dei grandi ristrapolo Machiavelli. Nel dialogo con i fratelli, dialogo col progresso e acquisisco strumenti per l'istruzione agli elementi del deserto. Sacralità estetica, codesto verso vanità supero mistica e siero in festo. In arresto al cioino, ero in elaborazione di una postergazione per un nuovo me stesso. Ora pretermesso ad ogni evento di remissione è l'escatologia di codesto percorso. Segna la filosofia del concorso di completezza esteta in consapevolezza dei propri ideali. Non c'è ricerca dei piaceri carnali, ma l'apparenza è specchio con le gesta di facoltà mentali. Da ciò risali e non discostarti né scostarti dai tuoi ideali. Alla fine del percorso il fine didascalico, l'istituto estetico è parenetico, in quanto non bisogna dimostrare ma mostrare in manto un assaggio del tuo alveare. Sommazione.